Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Domandina di prima mattina: qual è l'ultima volta che avete misurato la glicemia? E che valori avete di glicemia? Ve li ricordate? Ne parliamo oggi con il nostro primo ospite del mattino, il professor Giorgio Sesti. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ordinario di medicina interna all'Università La Sapienza di Roma. Professore, la glicemia è un parametro importante della nostra salute. La parola glicemia viene spesso associata al diabete, viene tirata in ballo insieme alla pressione alta, al colesterolo elevato, al sovrappeso quando si parla di sindrome metabolica. Naturalmente ne parleremo, ma professor Sesti, ci dia una buona ragione per controllare la nostra glicemia. Ma la buona ragione è perché, per fortuna, la glicemia, che appunto è il parametro che utilizziamo per la diagnosi di diabete, può essere controllata e soprattutto, se è leggermente alta, si può prevenire la poi progressione verso il diabete. Quindi avere una misurazione a una certa fase della propria età serve come campanello d'allarme per dire che devo fare qualcosa per evitare che poi diventi troppo alta. Quali informazioni dà la glicemia, il valore della glicemia, voi medici? Allora, noi ci danno informazioni importanti, perché quando il valore della glicemia a digiuno, quindi dopo aver fatto una notte senza aver mangiato e si fa il prelievo di sangue normalmente nel laboratorio, se il valore è sopra i 126 mg decilitro vuol dire che c'è qualcosa che non va e che la mia glicemia è già mi fa fare la diagnosi di diabete. Se invece ho una glicemia un po' alta, che è compresa tra i 100 e i 125, vuol dire che la mia glicemia ha una tendenza ad andare verso il diabete e quindi non è una cosa buona, e in questi casi è un campanello d'allarme, per cui devo fare qualcosa per impedire la progressione verso il diabete. Quando invece la glicemia è al di sotto dei 100, allora vuol dire che ho un buon controllo e quindi mi sto comportando adeguatamente e posso continuare, diciamo, ad avere questa mia stile di vita. Ma professore, ci sono dei sintomi che possono far sospettare che la nostra glicemia sia in eccesso o in difetto, oppure sono solo gli esami del sangue che possono evidenziarlo? Purtroppo la glicemia fino a una certa soglia, in genere sui 180 mg decilitro, non dà segno di sé, nel senso che il primo parametro che la glicemia fa dal punto di vista sintomatologico allarmare la persona è l'aumento della frequenza con cui io vado in bagno, con cui urino, perché la glicemia, il glucosio viene perso nelle urine e fa un po' da diuretico, lo chiamiamo noi diuretico osmotico, cioè trascina anche acqua, e quindi io mi alzo più spesso la notte per andare in bagno, ho lo stimolo ad andare più volte in bagno e mi accorgo che proprio la mia quantità di urina è aumentata. Fino a che però non si raggiunge questa soglia, che appunto vi ho detto è 180, normalmente non dà segni, quindi io sto apparentemente in ottime condizioni di salute, però ho la glicemia già elevata e anche sopra la soglia del diabete. Ci sono dei parametri però che mi suggeriscono di controllare la glicemia, per esempio se io ho la pancetta, la girovita, che è la cosiddetta obesità addominale, e in quei casi devo un po' allarmarmi, perché spesso è sovente associata a una lieve già glicemia o in alcuni casi già diabete, quindi per esempio avere già una pancetta o essere ingrassato di qualche chilo forse già ci fa allarmare, un controllo della glicemia lo suggerirei. Professore, c'è una familiarità ad avere la glicemia un po' altina, un po' fuori soglia, quello che un tempo era definito prediabete? Sì, la forma di diabete di cui stiamo parlando, quello legato allo stile di vita, al sovrappeso, alla pressione elevata e così via, è una forma fortemente genetica, quindi chi ha avuto un papà, una mamma o un fratello con diabete, che noi definiamo diabete tipo 2, queste persone hanno un maggiore rischio di avere la glicemia elevata, e specie combinata con lo stile di vita sedentario, con scarsa attività fisica, con un'alimentazione non corretta, soprattutto di grassi, può aumentare il rischio, e quindi loro devono fare sicuramente dopo i 45 anni un accertamento annuale della glicemia. Chi altri deve controllare la glicemia? È un controllo che dobbiamo fare tutti a partire da una certa età, ce lo suggerisce il medico, lo facciamo, lei ha sottolineato le persone in sovrappeso che hanno un po' la pancetta, il famoso grasso addominale che sappiamo che è un nemico della nostra salute, non è tanto un problema estetico, o ci sono altre indicazioni? In realtà sopra una certa soglia di età, quindi che viene definita dopo i 45 anni, la glicemia dovrebbero misurarla un po' tutti. Però esistono delle persone in cui bisogna misurarla più frequentemente e anche in età più giovanile. Allora, queste sono le donne che hanno avuto quella forma transitoria di diabete che si chiama diabete gestazionale, cioè la glicemia insorta durante una gravidanza. Perché al termine della gravidanza e quindi diciamo negli anni successivi hanno un rischio maggiore di poter avere diabete. I familiari, come abbiamo detto, delle persone con diabete, i familiari diretti, quindi proprio papà, mamma, fratello, nonno, lontani, zio, cugini, poi le persone che sono in sovrappeso, tutte le persone che hanno ipertensione, tutte le persone che hanno un aumento dei trigliceridi e una riduzione del colesterolo buono HDL. Le donne che hanno la cosiddetta sindrome dell'ovaio policistico, quindi la difficoltà ad avere i cicli irregolari, in cui è stata fatta questa diagnosi, hanno un rischio aumentato di avere diabete anche in età più giovanile, quindi è corretto misurarla. Queste sono grosso modo la gran parte delle categorie che devono essere sottoposte a controllo della glicemia, un po' più spesso di quello che fa una popolazione di persone attive fisicamente, magre, magre, normopeso, le quali hanno un rischio relativamente basso di sviluppare diabete. Misuro la glicemia, vedo che è leggermente sopra la norma. Mi metto a dieta, faccio attività fisica. Quante probabilità ho che la glicemia vada a posto? La probabilità è molto alta e il tempo, a parte che dipende molto ovviamente dalla quantità di dieta ipocalorica che io posso eventualmente fare se sono in sovrappeso e dalla quantità di attività fisica. Però noi sappiamo che se una persona adulta riesce ad avere un'attività fisica regolare di 150 minuti la settimana, questa persona riesce a ridurre di oltre il 50% il rischio di avere diabete nei successivi 3 anni. Quindi devo iniziare un'attività fisica e già dopo i primi 6 mesi, il primo anno, io posso vedere non solo un miglioramento, ma una regressione totale della glicemia entro i livelli normali. L'importante è diminuire di peso o devo dare la precedenza a uno stile alimentare che, ad esempio, tenga conto, dell'indice glicemico dei cibi? Beh, come nel mondo della medicina noi parliamo di terapie personalizzate, anche la dieta va molto personalizzata. Le persone che sono in sovrappeso devono ovviamente ridurre il peso, quindi lì occorre privilegiare una dieta ipocalorica. In gran parte la dieta ipocalorica la si ottiene riducendo soprattutto la quota che fornisce più calorie, che sono i grassi. E la quota di zuccheri ovviamente deve favorire gli zuccheri complessi e non quelli semplici. Indirettamente rispondo anche, diciamo, alla seconda dieta. Se io ho una dieta normopeso e mi accorgo di avere, ad esempio, le glicemie postprandiale, quindi quelle che io faccio dopo i pasti, elevate, che generalmente sono tra l'altro il primo campanello di allarme di una tendenza a sviluppare il diabete, allora in questi casi occorre ridurre le diete con l'indice glicemico, con i cibi ricchi di quelli che io chiamo le 4 P, pasta, pizza, pane e patate, perché sono gli alimenti che hanno zuccheri semplici e che tendono a dare i picchi di glicemia molto elevati postprandiali. E allora in questi casi occorre evitare questi alimenti, ovviamente non in senso assoluto, ma sempre Assoluto. limitandoli fortemente, ma favorendo in questo caso particolarmente una dieta isocalorica, quindi diciamo non senza necessariamente perdere peso, ma con una dieta che favorisca l'utilizzo di fibre e di zuccheri complessi, che consentono di non avere i picchi postprandiali che normalmente questi cibi invece con alto indice glicemico comportano. Professore, ci ha parlato delle 4P e la frutta di stagione. Questa è la stagione di pesche, albicocche, ciliegie, melone, anguria. Spesso utilizziamo proprio questa frutta per fare degli spuntini o anche per sostituire il pranzo quando iniziano le giornate calde. Una buona idea o chi ha la glicemia un po' mossa, deve fare attenzione? Bisogna fare attenzione alla frutta troppo zuccherina, quindi lì è abbastanza semplice perché quando noi abbiamo un frutto che è molto dolce, già sappiamo che quel frutto è ricco di zuccheri e sono zuccheri semplici. Quindi quando ad esempio parliamo di, adesso andiamo alla stagione pure estiva dei fichi, i fichi sono molto zuccherini, mielosi, tant'è vero che addirittura gradevolissimi, molto piacevoli, però si capisce bene che sono ricchi. Molto meglio la pesca e l'albicocca perché hanno un minor contenuto di zuccheri. E quindi lì, come al solito, con grande buonsenso, si possono prendere tranquillamente, si può mangiare la frutta non particolarmente ricca di zuccheri e ovviamente limitarsi alle frutte che sono particolarmente zuccherine, come i fichi, come possono essere le banane o frutti del genere, che hanno ovviamente sono molto gradevoli al palato, ma che uno comprende bene, sono anche molto cariche di zucchero. Professore, grazie per essere stato con noi. Abbiamo ripassato un po' alcune indicazioni, consigli, quindi buone ragioni per tenere sotto controllo questo parametro importante. La ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie. Come sempre vi do appuntamento dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Vi aspetto, non mancate, intanto una buona giornata da Nicoletta.